It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli la luce della luna rischiara solo pochi angoli, Kappa e Drago stanno aspettando l'esito del check-up. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Kappa, dai, coraggio, su. Fra un po' passa il carrello del mangime e sei a posto. Ci sarà anche per me la paroxetina, speriamo, perché... Ma credo di sì, mi sa che qui è di default. Che bello, Drago. Io mi sto trasformando in un pollo e tu invece hai l'aviaria. Siamo messi bene. I nostri polli possono andare a cresta alta. Possiamo davvero essere orgogliosi, Kappa. Sì. Ma io non ho l'aviaria. No? È qui dentro che fa troppo caldo e l'aria è troppo secca. Tu piuttosto, come diavolo avrai preso la tua malattia, che è molto più grave, eh? Non avrei mica fatto il galante con qualche gallina. Che galante, eh? Una cosa, ma io, ma figurati, Drago, io. Pronto? Pronto. Ciao. Ciao. No, dimmi pure. Anch'io. Tanto, sì. Kappa. Oh, sì. A dopo. Ciao. Che racconta le origini dell'amministratore delegato della fabbrica di polli. Intanto io vorrei capire l'amministratore delegato della fabbrica di polli, che cos'è un amministratore delegato? Esatto. Delegato, cosa vuol dire? Prima di tutto non siete tenuti a sapere. Poi, comunque, l'amministratore delegato è un componente del consiglio di amministrazione di una società. Un componente? Il principale componente. Quindi è più importante prendere le decisioni lui alla fine. Certo, è preposto a decidere, è pagato per decidere, profumatamente pagato. E quanto rischia di suo? Niente. Come? Cioè, rischia la sua faccia, la sua professionalità e basta. Una delle capacità fondamentali dell'amministratore delegato è far andare di mezzo altri nel momento in cui ci sono delle responsabilità accertate di illeciti e o furti. L'amministratore delegato ha delle responsabilità. Per esempio deve essere il più elegante. Deve essere il più elegante, certo. Deve sapersi vestire, deve saper dare la mano. C'è una specie di gerarchia implicita nei vestiti, nel senso che nessuno si azzarda a vestirsi come l'amministratore delegato, perché solo l'amministratore delegato può, ad esempio, indossare o non indossare la cravatta. Certo, indossa sempre la cravatta l'amministratore delegato. Anche quando va in bagno indossa la cravatta l'amministratore delegato. Ma non ho mai visto uno togliersi la cravatta per entrare in bagno. Tu non hai mai visto neanche un amministratore delegato in bagno, spero. Drago, però queste cose mi sembrano già sentite, non so, mi sembra un déjà écouté. Non abbiamo già parlato tante mezzanotti fa? Ma no, ma guarda che il problema è che non sono andati in onda questi dialoghi con l'amministratore delegato, solo quello. Ma non si capisce niente. Ma non è vero, è chiarissimo, lo dice anche David Lynch. Chi? David Lynch. I always say that ideas are like fishing. If you want to catch the big fish, you've got to go deeper. Ma cosa dice, scusa, Lynch? Che le idee sono come andare a pesca e se vai più in fondo peschi dei pesci, cos'è? No, ma adesso senti questa. So I catch an idea and suddenly I'm in love with this idea and I don't really know why. And I don't really judge the thing. I just love the thing and I see a way to translate it to film, say, or painting. Hai sentito? Dice che non ci capisce niente a un certo punto. Gli piace un'idea, va bene così. Quindi se lo dice Lynch. Lo dice Lynch. La fabbrica di polli produce. Non chiude. Non chiude. Fabbrica di polli produce. Non nuoce quasi mai. K, cosa dicono gli esiti del check-up? Un disastro, Drago, un disastro. Devo smettere di fumare. È logico. Smettere di mangiare. Smettere di bere. Smettere di prendere caffè. Smettere di lavorare e smettere di respirare l'aria della fabbrica di polli. In pratica devi morire. È morto. Il cuore va bene, tutto a posto, ma lo stomaco no. E vedi, mangi male. Gli esami del sangue sono pieni di sottolineature. Guarda qua. Significano tutti i valori che eccedono la norma, capito? Devi fare attenzione. Però non capisco una cosa. Sono entrato nell'ambulatorio del dottor Freuse, mi sentivo bene, stavo bene. Stavo bene. Sì. Abbastanza. Bene. Abbastanza. E poi ne esco malato. Ma che senso ha? Sono entrato alle 9, sono uscito a mezzogiorno e mezzo. Col cancro, prima non ce l'avevi, esci di lì e c'hai il tumore. Vabbè, ma d'accordo il colesterolo, d'accordo tutte queste cose, ma... Sì, d'accordo il tumore no, però... E la pollizzazione? Ma la pollizzazione, Drago! Cosa vuoi che sia la pollizzazione? Senti qua l'altoparlante. Riprovi a decifrare il messaggio robotico col tuo cellulare modificato. Stai un po' zitto, che sennò... Niente. I signori che controllano la fabbrica di polli hanno sicuramente protetto il centro di origine delle loro onde radio con l'infallibile sistema dei... La gabbia di Faraday. Signor Faraday! Signor Faraday! Si calmi, signor Faraday! Fatemi uccidere! Signor Faraday! Signor Faraday! Signor Faraday! Signor Faraday! La gabbia di Faraday! Che cosa succederà adesso? Chi è il signor Faraday? E qualcuno di voi sa che cos'è una gabbia di Faraday? Ma soprattutto, il signor Faraday ha a che fare con la pollizzazione di K? Per saperlo, non dovete fare altro che sintonizzarvi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo ornitologico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, la fabbrica di polli produce. La fabbrica di polli. Good night, ladies. Barumen.